Caro Milan, non ti smentisci mai, sei sempre il solito ipocrita. Radio Kabul. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, una nuova puntata di Uno Nessuno 100.000 in diretta dagli studi di Radio 24 in Viale Monterosa a Milano. Ci siamo, l'Alpino, guardalo lì! Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione, Leonardo Manera in arrivo! E voi 800 24 00 24, chiamateci. Oggi ve lo dico subito, nella prima parte parleremo del referendum. Ebbene sì, c'è un referendum il 20 e il 21 settembre, si vota, e con tutti gli annessi e connessi anche le polemiche. Quindi oggi, per dovere di informazione, è giusto parlare, spiegare con due ospiti, uno per il sì e per il no e uno per il no, perché il perché sì, il perché no e di che cosa stiamo parlando. E quindi da qui voglio partire oggi, poi parleremo di tante altre questioni. Avremo ospite alle 9.30 l'ingegner Sacca, che propone, è stata forse per qualcuno una butade estiva, per altri no, propone e rilancia il ponte sullo stretto di Messina, ma attenzione, non il ponte, ma questa volta il tunnel sotterraneo per lo stretto di Messina, ecco, non si può dire sullo stretto di Messina, ma a questo punto il tunnel sotterraneo sotto lo stretto di Messina. Ma parleremo anche di scuola, di tante altre tematiche con voi fino alle 11. Vai. I will not be easy and it will not be easy. With a purple umbrella and a 50-cent hand. Capite che è un po' il nostro mantra di questa stagione, eh? It will not be easy. Allora, il referendum. Ci sono tante cose da dire. Io faccio due premesse. Toglierò da questa parte di trasmissione la polemica sulla questione del perché si vota nelle scuole. Per me è abbastanza inconcepibile che non si sia trovata una soluzione alternativa, per cui molte scuole, quelle che riapriranno prima del 2021, dovranno poi chiudere per le operazioni di voto. Vabbè, polemica che non c'entra con la questione del referendum in sé. Di che referendum parliamo? 20 e 21 settembre si vota, cari italiani, sul taglio di 345 parlamentari. Sono 115 senatori, 230 deputati. È una riforma costituzionale che prevede appunto un referendum confermativo, referendum costituzionale. Vale a dire, se passeranno i sì al quesito, che è un po' complicato, troverete il quesito sulla tessera, sulla scheda elettorale, il seguente quesito: modifiche. Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Questo è via così. Se voterete sì, approvate questa riforma e quindi approvate il taglio di 345 parlamentari. Se voterete no, boccerete questa riforma e quindi non ci sarà alcun taglio. Attenzione, premessa fondamentale. Sapete che nei referendum si dice: beh, ma basta andare, non andare a votare e non si arriva al quorum del 50% più uno. No, questo è un referendum diverso, è un referendum costituzionale confermativo, non è un referendum abrogativo. Quindi, se anche andassimo a votare, io e i due ospiti che ora vi presento e tutti esprimessimo un sì o un no, il referendum vale, non c'è quorum, non si può andare a votare anche in 10, in 20, in 30, e il referendum vale come risultato finale. Questo è fondamentale come premessa. Comunque voglio presentare, per le loro ragioni del sì e del no, Roberto Perotti, economista. Buongiorno, lei è per il sì. Buongiorno professor Perotti e grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Saluto il professore emerito di diritto costituzionale a Napoli, Massimo Villone, professor Villone, ex senatore, tra l'altro lei è per il no, buongiorno professore. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno a voi. Allora, io faccio l'arbitro, quindi non interessa il mio, il mio parere in questo caso, per una questione di par condicio, siete voi a dover portare avanti le vostre opinioni, io vi faccio solo le domande, è una questione di correttezza giornalistica e di rispetto appunto della par condicio. Vi chiedo, non sono qui col cronometro, abbiamo tempo fino alle 9:30, vi chiedo di stare diciamo sul minuto a risposta, cercherò di moderare così i tempi in modo da dare spazio uguale a entrambi. Io inizierei dalla questione dei costi, che è stata molto affrontata, perché ho letto varie interviste vostre. Lei, professor Perotti, facendo i calcoli, dice che si arriverà a un risparmio possibile fino a 500 milioni di euro l'anno, per sua stessa missione è lo 0,007 della spesa pubblica. Secondo il professor Villone, invece, che cita l'osservatorio dei costi di professor Cottarelli, si parla di 57 milioni di risparmio l'anno, da qui l'espressione si fa una riforma per il valore di un caffè al giorno per italiano. Ecco, partirei da qui. Professor Perotti, lei dice questi costi e perché argomenta per il sì in base ai possibili risparmi? No, in realtà io non ho mai detto che si risparmia 500 milioni all'anno. Le mie stime con Tito Boeri sono che si risparmiano almeno 77 milioni tra compensi, diarie, rimborsi spese, netti, tutto netto di tasse e contribuzioni per previdenziali. Sì, ha ragione, io calcolavo la legislatura, era sugli 80-100 milioni l'anno, quindi 500 milioni a legislatura. Diciamo. Quindi 77 milioni sono sicuri, poi ci sono un po' di costi variabili che sono difficili da quantificare, insomma se il pagamento si riduce, si riduranno un po' di altre spese, un po' anche di assunzioni e di impiego di personale di contorno, quindi diciamo da 77 milioni si potrà arrivare a 80, 85, 90 a regime. Mm-hmm. Quindi questa è la cifra, e quindi 90 milioni l'anno. Lei, professor Villone, dice 57 milioni, o meglio cita il professor Cottarelli che ha stimato in 57 milioni, e quindi sì, per lei non vale non, insomma è una riforma che alla fine va a far risparmiare davvero pochissimo se la si mette sulla questione dei costi. Ma questo mi pare un dato oggettivo, in fondo anche il professor Perotti non è che dice cosa molto diversa, perché se uno va a guardare i bilanci di Camera e Senato, cosa facilissima perché sono online, vede che le voci relative alla spesa, diciamo in senso proprio, sono una parte assolutamente minore della spesa totale dell'istituzione. E quindi da qui il conto dei 57 milioni, che però vanno valutati poi sul totale della spesa. Sì. 57 milioni all'anno su 1,5 miliardi per l'istituzione Parlamento, e per il totale della spesa pubblica dello Stato italiano, che viaggia credo verso i 900 miliardi, sono 57 milioni su 900 mila milioni all'anno. Sì, sì. Questo è questo il senso del risparmio visibile, perché non è che si manipola l'istituzione per un risparmio che alla fine è oggettivamente irrisorio. Sì, messo così, cioè dire 80-90 milioni, molti ascoltatori dicono beh 80-90 milioni sono tanti, vanno certo parametrati, dice Villone, su quella che è la spesa pubblica e le spese parlamentari. Mi faccia tornare il professor Perotti su questo. Lei, professore, dice però intanto è anche un risparmio non eccezionale, è un risparmio. E secondo, i simboli, la politica si nutre anche di simboli, di riforme simboliche che magari non fanno risparmiare, come dire, allo Stato tantissimo, ma hanno un senso da questo punto di vista. Vuole argomentare su questo, Perotti? Sì, sono d'accordo che il risparmio è irrisorio rispetto alla spesa pubblica e al debito pubblico italiano. Non è certo per ridurre il debito pubblico che si fa questa riforma che è stata proposta. Questa riforma, però ci vuole qualche altro argomento oltre al fatto che si risparmia poco per votare no, perché se questo fosse l'unico argomento, o se anche risparmiassimo un euro in totale, sarebbe da fare. Ovviamente immagino che ci siano altri argomenti per votare no, perché da solo il fatto che i risparmi siano piccoli finché sono positivi, finché, anche se sono piccoli, da solo questo sì. un argomento. Sì, credo che ce ne siano gli argomenti, adesso li sviscereremo. E poi è vero che i simboli contano, cioè, non dobbiamo dimenticare che questa riforma è nata all'apice del movimento antipolitica, con cui si può essere d'accordo o no, ma che era un fatto della realtà italiana e di cui insomma la classe politica in parte è responsabile, non possiamo negarlo. Quando fu votata, fu votata quasi all'unanimità, adesso saltano fuori tutti questi argomenti più o meno convincenti sul no, ma al momento in cui fu votata, quasi all'unanimità, quasi tutti erano d'accordo, perché i simboli contano, bisogna dare un segnale che, come tante persone sono in difficoltà, anche il Parlamento riconosce sì. che deve stringere i cordoni. Allora, tornerei dal professor Villone, veniamo un po' di questi argomenti per il no. Una delle questioni per cui molti dicono bisogna votare sì è questa: con il taglio dei parlamentari, meno parlamentari sicuramente lavoreranno meglio, essendo un consesso più ridotto. Lei ha spiegato in una serie di interviste perché a suo parere assolutamente non è così, ce lo vuole spiegare? Sì, mi permetto però di dire una parola sui simboli, perché è un argomento serio quello dei simboli, quando però i simboli non sono, come dire, miraggi ingannevoli come in questo caso. Perciò la riforma è un cedimento, come si dice, al populismo più becero, diciamo. È vero che le forze politiche hanno votato in massa nell'ultima votazione, ma l'hanno votata, direbbero i penalisti, per motivi futili e abietti, perché hanno scambiato la Costituzione con la nascita di un governo. Non si baratta una Costituzione con la nascita di un governo, perché le Costituzioni sono fatte per durare, i governi, come dire, passano necessariamente. Sì. Quindi questo è il punto censurabile, che però, devo dire, viene finalmente colto, perché l'argomento della spesa, per fortuna, è praticamente scomparso, diciamo, dall'orizzonte, non se ne parla più, mentre all'inizio era quello centrale, adesso è il tema dell'efficienza, sì. che lei portava in primo piano giustamente. Infatti, lavora meglio. Allora, lei coglie il senso dell'argomento così: il Parlamento, meno parlamentari lavorano meglio. Ma che vuol dire che lavorano meglio? Che fanno leggi più in fretta? Che ne fanno di più? Questo francamente fino a ieri si diceva che ne fanno troppe, figuriamoci. Ma soprattutto io dico un'altra cosa: il Parlamento ha una condizione tipica, qualunque Parlamento rappresentativo, non il nostro in particolare, in generale, il Parlamento rappresentativo ha una condizione in cui davvero non funziona. Ma non è una condizione data dai numeri o dalle regole in modo specifico, è una condizione data dalla litigiosità della maggioranza. Cioè, quindi lei dice questo funziona. È il problema, cioè se la maggioranza litiga, perché se non litigasse non ci sarebbe opposizione che terrebbe. No, perché l'ostruzionismo e l'opposizione ci sono fior di strumenti per fermarla. Ne abbiamo visto un esempio proprio in queste ore, no? Tutta la battaglia, lo scontro sul rinnovo, sull'emendamento presentato da qualche decina di deputati del Movimento 5 Stelle sul rinnovo dei vertici dei servizi di informazione. Sì. E qui che cosa è successo? Che il governo è stato costretto a mettere la fiducia, perché mettendo la questione di fiducia decadono tutti gli emendamenti. Quindi lo strumento c'è, perché si è, diciamo, risolto il problema. E qual è il problema? È che c'è stato uno scontro nella maggioranza. Un altro caso, per esempio, è il MES. Noi siamo il Fondo Salva Stati. Noi abbiamo avuto il tormentone del MES per mesi. Perché? Perché mezza maggioranza dice assolutamente sì, mezza maggioranza dice assolutamente quindi, no. Quindi, professor Villore, la fermo su questo, che così ribatte Perotti. Lei dice non è una questione di quanti siano i parlamentari, ma è una questione del fatto se c'è una maggioranza coesa un Parlamento funziona. Se non c'è una maggioranza coesa possono essere in 100, 200, 300, è quello il problema che blocca la produttività del Parlamento. Lei invece, professor Perotti, sostiene che il taglio dei parlamentari possa contribuire a far aumentare il ruolo fondamentale della presenza dei parlamentari rimasti e quindi la loro produttività. Ed è convinto di questo, professor Perotti? Sì, secondo me bisogna tenere distinti due piani molto diversi. Uno è quello che diceva il professor Villone, cioè ovviamente se la maggioranza è frammentata e non c'è un governo forte, il Parlamento riflette questo, il Parlamento non funziona, come sappiamo, l'esperienza italiana praticamente di tutta la storia repubblicana italiana. Questo è un dato di fatto, ma al di là di questo c'è un fatto che qualsiasi assemblea, che sia l'associazione, il condominio, l'assemblea di condominio, che sia l'assemblea di una società per azioni, che sia un Parlamento, se è troppo grossa non funziona per diversi motivi. Primo perché i partecipanti hanno incentivo a nascondersi dietro gli altri. Siamo 630 deputati, anche se io non presento mai un disegno di legge, se non partecipo alle votazioni ci penseranno gli altri 629. Se tutti fanno questo ragionamento sappiamo come va a finire. Poi perché se ci sono tanti deputati è difficile per gli elettori monitorarli, è difficile leggere cosa fanno sui giornali, è difficile farsi un'idea di chi e quanto e come lavora. Il Senato degli Stati Uniti ha 100 persone e gli Stati Uniti hanno il quintuplo della nostra popolazione e si devono occupare di molte più cose, inclusa la politica estera che l'Italia non ha. Il Senato degli USA, con qualche eccezione, soprattutto adesso che ci sono un po' di pazzi repubblicani al Senato in quest'ultima legislatura, il Senato repubblicano è fatto da persone, se le parla, hanno una conoscenza dei fatti di cui si occupano nelle loro commissioni che è straordinaria e riescono a funzionare e sono vicini. Io vorrei fare una domanda a entrambi sulla questione delle rappresentanze politiche, che è un tema molto interessante. Prima però questo, c'è un vezzo, secondo me, quando ci sono i referendum, sia abrogativi, in questo caso confermativo, di votare in base a quello che è la linea del partito nel quale un cittadino si riconosce. In linea di principio, secondo voi, parte dal professor Villone, è giusto oppure in questo caso uno può anche riflettere, pensare, fare le proprie valutazioni, leggere, informarsi e poi fregarsi di cosa pensa il partito di riferimento? Professor Villone. Ma guardi, io sono sicuro che in questa occasione molti se ne fregheranno, come dice lei, del partito di riferimento se si guarda quello che il partito ha votato. Perché lì hanno votato praticamente all'unanimità nell'ultima votazione, 556 favorevoli, mi pare 2 astenuti, 14 contrari o qualcosa del genere, e da quello che si vede dai sondaggi siamo con il no che viaggia su percentuali di assoluto rilievo e che sta in crescita, quindi questa è già una smentita di quello che le forze politiche hanno fatto, diciamo. No, però sente anche lei tutti i discorsi dei politici, bisogna votare no perché così il governo, bisogna votare sì perché sennò no. io spero che invece venga fuori con forza la consapevolezza che appunto la rappresentatività è decisiva. Il professor Perotti ha usato una parola che personalmente mi piace, che è monitorare, no? Ha detto se sono molti non si possono monitorare, ma in Italia non si può monitorare il parlamentare esattamente dal 2006, perché è dal 2006 con il Porcellum che si è rotto il rapporto tra parlamentare e territorio. Io l'ho sperimentato perché sono stato eletto in 3 legislature con il collegio, con il Mattarellum, in una con il Porcellum, ed è un altro mondo. Sì. Perché non si ha più il rapporto col territorio. Scelgono i partiti, questo, se vuoi. Certo, c'è un Parlamento di nominati, perché ti mettono in lista in un certo ordine, se arrivi all'ordine al posto tuo con i consensi ci vai in Parlamento e se no no. Allora il punto è questo, ed è un punto di legge elettorale che va invece ricondotta al punto che i cittadini alla Repubblica scelgono il loro rappresentante. Allora diventa significativa la rappresentanza. No, non facciamo i conti, i raffronti con stati del tutto diversi. Per esempio, il professor Perotti citava gli Stati Uniti, diceva, ma il Senato degli Stati Uniti sono solo 100. Ma quello è uno Stato federale in cui ogni Stato membro della federazione, cioè il suo Parlamento, che quasi per tutti è bicamerale, e che è una vera e propria assemblea legislativa. Per esempio New York ha due assemblee che assumono circa 230 persone. Sì. Persino l'Alaska, che ha 800.000 abitanti, compresi gli orsi polari, nel conto, tiene un Parlamento bicamerale di 40 deputati e 20 senatori. Chissà se anche allora, gli orsi votano. Se facciamo sull'ibernazione annuale, probabilmente. Allora, se si fa il conto sul totale della rappresentanza, gli Stati Uniti hanno tassati membri e congresso circa 8.000 parlamentari eletti. In Italia, tra le regioni e Stato centrale, ne abbiamo 1.800. Allora, no, ma è chiaro. Io vorrei chiedere la stessa cosa per Otti, cioè se lei auspica un voto degli italiani slegato dalle appartenenze partitiche, oppure no. Prima però mi faccia rispondere un attimo al professor Villone. Questa è una risposta classica: gli altri paesi sono diversi dall'Italia. Certo, gli altri paesi sono diversi dall'Italia. C'è chi dice c'è uno Stato federale, c'è chi dice la Francia è diversa dall'Italia perché legge il Presidente, eccetera. Tutto vero. Però non è che ci si può ridurre solo a questo. Questo è il classico benaltrismo. Sono stati diversi. Sono stati diversi, sì, però questo non vuol dire che il Senato USA che si deve occupare di questioni ben più importanti di quelle di cui si deve occupare lo Stato italiano, perché lo Stato federale USA è molto più grande, funziona benissimo. Gli Stati USA hanno dei loro parlamenti, le regioni italiane hanno i loro consessi, che peraltro si devono occupare di argomenti come la sanità, di cui i parlamenti USA non si devono occupare, che peraltro si riuniscono pochissimo, i parlamenti degli USA si riuniscono pochissimo. Sulla sua domanda, ovvio, cioè mi stupisco anche che si debba porre questa domanda, cioè che ci si debba chiedere se uno ha il diritto o il dovere o la facoltà di pensare diversamente dal suo partito. Ci mancherebbe, non solo, ma ogni volta che c'è un referendum mi stupisco che ci sia qualche politico che dice io do libertà di voto. Sì, ma come se diano la libertà di voto. No, perché c'è l'indicazione o la libertà. C'è un ultimo punto, è molto ampio, se riuscite a contenervi in un minuto, che poi devo purtroppo fermarmi, ci sarebbero tanti argomenti da sviscerare. È il concetto della rappresentanza. Secondo lei, professor Villone, con il taglio ai parlamentari ci sarebbero regioni dove che rimarrebbero scoperte, quindi ampie fasce di elettorato che non avrebbero dei propri rappresentanti, una sproporzione, visto che non c'è una nuova riforma elettorale, una sproporzione nella rappresentanza appunto parlamentare rispetto alle popolazioni dell'Italia e alle zone geografiche. Ce la spiega? Ma questo lo dicono i numeri, non lo dico io, perché per esempio ci sono in Italia 9 regioni che hanno, soprattutto al Senato, il problema si pone in maniera seria, che hanno da 3 a 5 senatori. Per esempio a Basilicata, che tra l'altro ha fatto un ricorso su questo che la Corte ha respinto per motivi tecnici, la Corte Costituzionale, la Basilicata ha 3 senatori, e quando ci sono questi numeri così bassi, cosa succede? Che qualunque sistema elettorale, anche se fosse il proporzionale più puro del mondo, in realtà la prima forza politica se ne prende uno, la seconda se ne prende un altro e il terzo senatore va ancora alla prima. Dipende anche dalla distribuzione del voto, ma questa è una probabilità alta. Quindi in Basilicata andrebbero solo 2 forze politiche in Senato, e così nelle regioni da 3 a 5, che sono ben 9, andrebbero 3 forse 4 forze politiche, con una soglia di accesso di fatto che arriva anche al 15, al 20%. Quindi noi avremmo territori rappresentati come dire a macchia di leopardo, territori molto rappresentati e territori invece scoperti, sì, zone urbane molto rappresentate, zone interne praticamente prive di rappresentanza, perché c'è una massa critica minima nella rappresentanza che non, sotto la quale non si può scendere. No, è chiaro, se... per queste ragioni, insomma, lei è per il no. Su questo Perotti vuole controbattere sul tema rappresentanza? Secondo me questo è un problema marginale, non si può far dipendere il sì e il no da questo, dal problema della Basilicata che vuole un senatore in meno. Si è parlato molto del fatto che con la riforma l'Italia avrà un numero di parlamentari per abitante, per 100.000 abitanti, inferiore a quello di tutti i paesi europei. C'è stato anche un documento di Camera e Senato su questo. In realtà questo è fuorviante, perché non possiamo comparare l'Italia, che è uno dei paesi più grandi per popolazione, con i paesi piccoli, perché ovviamente c'è una dimensione minima di un Parlamento, che i paesi piccoli meccanicamente hanno un rapporto hanno più rappresentanti per abitante. Se prendiamo i paesi più grandi, Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna, e mettiamo insieme tutti i parlamentari, perché il Senato italiano è l'unico che è identico alla Camera dei Deputati, viene fuori che l'Italia anche dopo la riforma avrà un numero di parlamentari totali per abitante pari alla Germania e alla Gran Bretagna, leggermente superiore alla Francia, anche se la Francia sta discutendo una legge di iniziativa governativa, non di movimenti di Francia, che ridurrà il numero di parlamentari più o meno a livello italiano. Quindi lei dice è contrapporto rappresentati rappresentati, cioè tra elettori e parlamentari, e non tanto la distribuzione geografica. C'è anche una questione di distribuzione, però ripeto, non si può far dipendere una riforma costituzionale da quello che succede in Basilicata. Può darsi che alla fine ci siano alcune piccole regioni in cui una forza politica che prima era rappresentata non sarà più rappresentata in quella regione, ma questo vuol dire che questa forza politica scompare dal panorama italiano. È chiaro. Allora, io mi fermo qui e vi ringrazio molto. Avete portato molte argomentazioni, Roberto Perotti per il sì e Massimo Villone per il no. Poi, cari elettori, io quello che posso dire, cari ascoltatori, in questo caso elettori, leggete, informatevi, andate in rete o sui giornali e leggete, approfondite con interviste varie argomentazioni, fatevi un'idea e votate, ripeto, a maggior ragione, perché come ho detto all'inizio non esiste quorum, e quindi anche se vanno a votare in 5 e tutti si esprimono, il referendum è valido. Vi ringrazio davvero, ci fermiamo per la pubblicità e rientriamo tra un attimo. 1, nessuno, 100 Milan. I nostri parlamentari vengono nominati, scelti dai segretari dei partiti. Quando poi in Parlamento votano secondo le direttive dei loro segretari. Quindi a noi non ci rappresentano, a che servono? Non ci rappresentano. Non è quanto risparmiamo, è il fatto che è una spesa superflua, perché comunque la macchina dello Stato funzionerebbe comunque. Quindi potessero essere anche 1000 euro, ma comunque risparmiamo. Ricordiamoci comunque che è una riforma costituzionale, e se i costituenti hanno fatto quella scelta, dei motivi seri ce l'hanno. Io mi fido molto di più dei costituenti che di Di Maio. Allora, questo è il parere dei nostri ascoltatori. Devo dire che non sono mai arrivati così tanti messaggi come sul tema referendum, anche WhatsApp, caro Leonardo Manera. Io lo dubitavo abbastanza, invece vedi che la gente è interessata, caro. Ma io invece, buongiorno. Io non ho capito se tu... Sì. Se tu ancora sei interessato alla questione. Sono interessato. Secondo me no, per niente. Secondo me non ti tange minimamente. No. Hai fatto questa intervista contro voglia, proprio. No, ma sì, parliamo del referendum. Ma no, ho fatto l'arbitro. VAR. L'hai fatta contro voglia, si sentiva dalla voce che era un tono VAR. Calcio di rigore. No, ma no, il tono sì, svogliato. Sì, sì. È il tono sì. come le vecchie, sai, Jacobelli. Gli Aver Jacobelli, le vecchie tribune elettorali. Lei, professor Villone, lei, professor Perotti, è giusto, è il giusto atteggiamento, perché c'è la par condicio. Eri disinteressata. Ancora. Guarda che non è un tema che ti infuoca. Quando ti ecco, fissi, no, infuocare certamente è difficile. Questa è già una prima ammissione. Quindi non ti infuoca. Sei tiepido, ecco, diciamo che sei tiepido rispetto all'argomento. Sei tiepido. Sono jacobelliano. Fanno impressione invece gli ascoltatori che alla fine sì. dicono: ma tanto la macchina dello Stato funziona lo stesso. Ma agendo, pensando in questo modo, si va verso una deparlamentizzazione del nostro paese. E il Parlamento non ha la sua funzione, non dobbiamo andare verso la deparlamentarizzazione sì. della macchina dello Stato. Sì, sì, quindi sì. questa è una cosa importante. Importante. Detto questo, tu sai già per chi voterai. Io sì e no. Tu sì e no? Ah, cioè, tu vai lì e voti proprio sulla scheda elettorale. Sì e no. Sì, no. Vabbè, il solito democristiano, si sa, sei sempre stato Cerchio Bottista. Cerchio Bottista. Caro Leonardo, adesso dobbiamo presentare un ospite. Devo dire che questo tema è stato rilanciato quest'estate da Conte, dal Premier Conte, che è andato dal direttore degli affari italiani, nostro amico Perrino, lì in Puglia. Ogni anno fa questa kermesse e ha rilanciato, secondo alcuni, tra lo stupore di molti, l'idea di unire Sicilia e Calabria con una struttura, una infrastruttura. Senti qua Conte. Sullo stretto dobbiamo pensare, quando si realizzeranno le condizioni, a un miracolo di ingegneria. Se del caso anche sottomarina, perché no? Ci stiamo pensando, tutte le ipotesi sono aperte, ma lo faremo a tempo debito. Va bene, a tempo debito, con le premesse. Ingegner Giovanni Sacca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Salve. Il progetto anche sottomarino di un tunnel. E tutti a dire, eccolo qui, è l'idea che coltiva da anni, da non so quando, l'ingegner Giovanni Sacca. Da quant'è che lei è di Messina, giusto? Sì, ma abito a Verona. Abita a Verona, va bene. Beh, però forse il fatto anche del legame territoriale forse l'avrà... Sì, certamente. Sì, probabilmente è stato tenendomi in contatto con degli amici, dei colleghi che ho cominciato a ragionare su queste cose, diciamo nel 2014-2015, partecipando a dei convegni. La prima volta mi hanno invitato a Roma per un convegno, ho conosciuto diverse persone che tra l'altro si interessavano anche della società Stretto Messina, insomma, del progetto, insomma, e casualmente li ho incontrati, insomma. Poi ho conosciuto anche delle persone con cui ho avuto modo di ragionare, e un po' alla volta poi mi hanno invitato a dei convegni all'Università Messina, e di volta in volta abbiamo, diciamo, discusso di alcuni temi, soprattutto del trasporto locale, veramente. Sì, sì, cioè, però è maturata in lei, certo, è maturata in lei questa idea di poter realizzare un'infrastruttura sì. sottomarina, no? Per tanti anni si è parlato di ponte, e invece perché intanto si è convinto che l'infrastruttura sottomarina sia quella più adatta? Ma mi sono convinto, più che altro intanto erano fattibili tutte quante. L'unico problema è che era stato scartato la soluzione del tunnel negli anni 80, nell'88, diciamo, per la precisione, perché praticamente all'epoca, dai risultati, diciamo, degli esperti dell'epoca, era risultato che si poteva realizzare solo a meno 258 metri sotto al livello del mare, così c'è scritto sugli atti. Perché questa profondità, cioè, legata a che cosa? No, intanto dobbiamo ricordarci che la Sicilia e la Calabria sono unite dalla terra, insomma, cioè sotto al fondo del mare c'è terra, chiaramente. Certo. E la zona meno profonda si trova tra Villa San Giovanni e Gianvirri, cioè dove c'è il pantano. Uh-huh. Ed è profonda al massimo 105 metri se uno segue, diciamo, la cresta della sella. Sì. E praticamente in quella zona lì, scavando con una copertura di almeno 50 metri, così c'è scritto sul libro della società Stretto di Messina, perciò gli stessi autori del progetto della società Stretto di Messina hanno dichiarato in un apposito paragrafo perché hanno scartato il tunnel. E praticamente hanno scartato il tunnel perché loro dicevano che richiedeva, che era intanto possibile farlo ad una profondità di almeno 150-170 metri sotto il livello del mare, per cui praticamente hanno contraddetto nel libro del 2010 quello, o hanno aggiornato, diciamo così, i dati del 1988. Nel 1988 sugli atti parlamentari risultava meno di 158, in quello della società tensione del 2010 risultava fattibile a una profondità, così scritto, di almeno 150-170 metri sotto il livello del mare, con una copertura di almeno 50 metri di terra sopra alla cittadina della galleria stessa. Insomma, ecco. Per cui io sono partito a questo punto da questa idea che gli esperti che hanno progettato il ponte sullo stretto, sulla loro direzione, che hanno spiegato anche che si può tranquillamente scavare con normali TBM, con le tecniche, le talpe meccaniche, si scava, le talpe meccaniche scavano. E fare questo tipo di lavoro. Ma lei davvero ci crede, nel senso, la sua idea è alla sua idea che si è ispirato il Premier Conte? Perché ma il ragionamento è molto semplice, perché il governo a un certo punto ha dichiarato, l'avrà sentito anche lei, che prima bisogna fare l'alta velocità in Calabria, in Sicilia, e poi dopo si parlerà. E infatti Conte ha detto a tempo debito, ha fatto tutta una serie di... Ma il problema è che non si può fare questa cosa, è stato tutto dipendente da questa semplice frase, perché io sono andato a guardare le schede di progetto dell'alta velocità in Calabria e ce n'è una sola che spiega che praticamente bisogna realizzare una nuova linea ferroviaria da Villa San Giovanni fino a Gioia Tauro, e guardando il tracciato e tutta montagna non può essere altro che una galleria, e misurando mi sono accorto che di almeno 34 chilometri. Per cui nel momento stesso in cui le devi fare una galleria da Villa San Giovanni a Gioia Tauro, non può farla e basta. È sbagliato dire ma dove devo andare? Devo andare verso il ponte, verso il tunnel? Cioè lei deve essere fatta in previsione di quello che verrà fatto dell'attraversamento per la Sicilia. Cioè non sono due progetti distinti, possono essere due distinti. No, io devo dire, io non ci capisco nulla di ingegneria, per carità, Leonardo ma se lei deve andare dall'altra parte, si tratta di capire se lei passa di sopra o di sotto. Questo sì. Questo sì, cioè fare una galleria in Calabria e poi senza pensare quello che uno vuol fare dopo sarebbe assolutamente assurdo, però sarebbe anche tipicamente italiano. Incuriosisce sapere come mai l'unico progetto di alta velocità è tra Villa San Giovanni e Gioia Tauro. Non è la cosa più immediata. Sulla stessa tratta, sulla stessa scheda ci sono diversi interventi, sono elencati, mi pare si chiama la I-109, comunque se lei va sull'appendice 5 del contratto di programma. Oltre a questo intervento ci sono altri 3 o 4 interventi tra Salerno, diciamo, e Reggio Calabria, per un totale di 6 miliardi. Hanno medicamente stimato che metà di questo importo serva per fare questa galleria di cui parlavo prima. Quindi 3 miliardi. Senta, qualche detrattore ha fatto notare che lei è un ingegnere ma elettrotecnico, è vero? Cioè lei... ma io sono un ferroviere, ho lavorato più di 30 anni in ferrovia e chiaramente in ferrovia sa perfettamente che le persone lavorano in tutti i campi, per cui io ho girato da RFI alle FSB in passato dalla parte, diciamo, della civile, la parte industriale, anche informatica, sono stato anche responsabile nazionale per la parte di sistemi informativi, insomma, per qualche anno, per cui sono iscritto all'ordine ingegneri come ingegnere, basta, industriale, come civile, sia come informatico, per cui la parola, mentre diciamo gli ingegneri laureati più giovani di me, insomma, vengono, si specializzano in qualcosa, nel mio caso è ingegnere, ingegnere. Oggi c'è questa distinzione. Perché questo rapporto tra gli italiani l'attraversamento del stretto di Messina è qualcosa che affonda nei decenni, nei secoli. Le persone che affondano il mare, sembra quasi che si dimentichi che tutto dipende da un triangolo rettangolo, cioè praticamente un calcolo elementare. uno deve stabilire semplicemente qual è il poderusa, qual è l'altezza, qual è il cateto, e bisogna stabilire da dove si parte, dove si arriva. C'è gente che dice che bisogna essere chissà chi per poter arrivare a una ragione così semplice, sì, mi pare di una banalità unica, ma talmente banale, perché guardi, se la galleria è lunga 34 chilometri, per passare dall'altra parte basta farne altri 4 e mezzo. Questo è vero, però sai, c'è anche tutta la questione dei terremoti. Che non... Costa 8 miliardi una galleria 4 miliardi, in quale punto dell'universo succede questa cosa? La questione perché dei... dobbiamo spendere altri 8 miliardi per fare un ponte quando ne basta uno e mezzo per andare all'altra parte? Non devi spiegare. Le chiedo dei terremoti, che è tutta la questione. Sappiamo che è una zona sismica. Dipende. Intanto il terremoto lì, sappiamo perfettamente che la Sicilia si allontana dalla Calabria di un tot, diciamo, all'anno, che ovviamente ognuno dà il suo numero, bisogna prendere i documenti accademici e valutarli. Il problema è che ovviamente sul libro della società di Messina c'è anche scritto che qualunque sia il problema esiste la soluzione, cioè esistono tunnel realizzati in giro del mondo che resistono tranquillamente a terremoti anche di 7.2 cioè, o 7.3 della scala Richter, quello che hanno appena fatto nel 2016 mi pare, l'hanno inaugurato a Istanbul, che ne hanno già fatti due, stanno facendo anche il terzo, uno è stradale, un altro ci passerà la metropolitana, un altro ci passerà la linea alta velocità e l'autostrada, cioè la via della seta per intenderci, e praticamente tutti quanti sono in zona sismica, tutti quindi si può fare, certo, lei dice in Giappone fanno i tunnel, chiaro, cioè fanno i tunnel, fanno i ponti. In America, dappertutto, se uno pensa alla metropolitana, c'è dappertutto. Ora tutta questa storia è venuta fuori perché nel momento stesso in cui lei fa l'alta velocità che parte da Gioia Tauro, a Rio della San Giovanni, se semplicemente prosegue può arrivare con l'alta velocità fino a Messina. No, ma è chiaro, allora ingegnere, no, ma può arrivare a quel punto, anzi è obbligato, ecco la novità è tutta qui, guarda, nel momento stesso in cui arriva a Villa San Giovanni, diciamo sottoterra, è costretto a risalire, guarda un po', quel punto lì è baricentro, è equidistante da Messina e da Reggio Calabria. Guardi, si fermi qui per ingegnere, perché il tema è molto complicato, implica sogni, investimenti economici, un qualcosa che è dibattuto da sempre, no? C'è da dire, caro Leonardo, un ascoltatore scrive: ascoltiamo da Messina in coda per accedere al traghetto, ponte o tunnel sarebbe un meraviglioso sogno. Il nostro Lorenzo Nespoli si è fatto 2 ore e mezza di coda oggi. Bisogna chiedere all'ingegnere se ha già pensato a un'analisi costi-benefici, che è la cosa sulla quale ci bloccheremo sicuramente. Facciamo così, lo reinvitiamo, perché adesso il tempo un po' stringe. L'ingegnere Sacca, che ringraziamo perché è molto interessante la promessa, è questo, lo reinvitiamo andiamo un po' ancora di più nel dettaglio, poi si farà, non si farà, chi lo sa. Intanto andiamo al traffico, anche a Messina. A tempo debito. Come ha detto Conte. Uno, nessuno, 100 Milan. Vorrei porre l'attenzione sul fatto che non è la quantità, ma è la qualità dei parlamentari che conta. La qualità mantenuta, nel mio caso, nel mio modo di vedere, con l'attuale numero. E seconda cosa, se si vogliono ottenere dei risparmi, semplicemente si possono ottenere riducendo quello che è il rimborso, lo stipendio, chiamatelo come volete, dell'attuale numero di parlamentari. Caro Milan, io voterò sì perché ci sono troppi fra senatori e parlamentari che prendono il Parlamento come un bar e vanno a prendersi ogni tanto un cappuccino e non si presentano mai, senza fare nomi. Buongiorno Vestaglione, buongiorno Manera Vestaglione. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione, seguo tutte le mattine. Capito Vestaglione? Guarda, non sono in Vestaglia, sono con una bella maglietta viola stamattina, pantaloni azzurri. Peccato che su Facebook non si possa vedere in diretta per il tuo stracismo. Devo contattare Sandro Fortunati. Bravo! Bravo Fortunati. Sandro Fortunati! Bravo! Sei riuscito a imparare il cognome dopo. Vabbè, dicevamo, Lorenzo Espoli si è fatto 2 ore e mezza di coda a Messina quest'estate, avrebbe messo anche un ponte gonfiabile pur di accedere. Però è sempre bello, devo dire che è sempre bello prendere il traghetto per Messina, sì, quando sì. Sei lì, diglielo, respiri Lorenzo, la brezza. Diglielo a Lorenzo quando era in coda. Vabbè, ma la coda è propedeutica al godimento poi di quando sei lì sul traghetto e respiri l'aria, l'aria sì. Siciliana, sicula, che sì, sta arrivando verso di te. Ma puoi respirare anche torni in senza stare 2 ore e mezza in coda. Ogni piacere è preceduto da una piccola sofferenza, quindi il traghetto, la coda servono poi a godere del traghetto e della brezza marina che nel tunnel non avresti. Questa mi sembra una considerazione risolutiva. I claustrofobici non andrebbero più. Va bene, dai, vai Leo, vai, a te. Allora, questi giorni si è parlato molto, l'abbiamo fatto anche noi qui, della modella armena di Gucci che in rete è stata oggetto di body shaming. Non dico il nome perché non lo ricordo, non lo so pronunciare bene, ma è lei. Senza tornare su di lei, quello che è certo è che viviamo in tempi in cui l'attenzione verso il corpo, il culto del corpo, probabilmente non ha precedenti, come se il culto del corpo fosse proprio una religione. E in effetti, per poter credere nel culto del corpo, bisogna possedere le 3 virtù teologali: fede nel personal trainer, speranza di tonificare il proprio corpo e carità, cioè amore verso il prossimo, anche se ti ha rubato l'ultimo tapirulan disponibile. Culto del corpo per mezzo di attività fisica, dieta, integratori, chirurgia plastica e, invece del santino, il selfie photoshoppato che tieni sempre nell'iPhone. Secondo alcuni sociologi, cito Bauman, questo culto del corpo deriva dalla società liquida, cioè da una società che non ha più punti di riferimento, non ha più ideologie, non si riconosce più in nulla. E in una società che non ha più punti di riferimento, l'ultimo baluardo rimane proprio il proprio corpo. Il corpo sociale non c'è più, e siccome il corpo sociale non c'è più, vado in palestra per mantenere almeno in forma il più possibile il corpo individuale invece di quello sociale. Infatti, secondo me, se si facesse il PDP, il partito dei palestrati, prenderebbe la maggioranza. Perché in effetti il nostro corpo, nell'arco di una vita normale, è quello che resiste di più a tutti i cambiamenti sociali che ci sono. Io, ad esempio, sono nato nel 1967 e da allora è passato il 68, sono passati gli anni di piombo degli anni 70, sono passati i paninari degli anni 80, non c'è più la disputa Berlusconi-Prodi degli anni 90 e perfino Beautiful ormai dà segni di stanchezza. E in tutti questi cambiamenti invece il nostro corpicino è ancora lì, che resiste con le sue rughe, con le sue fragilità, come un piccolo stato dove la bandiera di presentazione è proprio il tuo corpo. E ci sono momenti in cui la bandiera non la fai tanto vedere, la tieni lì come se niente fosse. Altri momenti invece, tipo quando vai in discoteca, dove tutti tirano fuori le proprie bandiere, sembra di essere alle Olimpiadi. Insomma, secondo questi sociologi, un corpo forte è lo specchio di una società debole. Ma ci sono stati momenti nella storia in cui si puntava molto sulla bellezza del corpo, come nell'antica Grecia. Per gli antichi greci avere un corpo bello significava avere anche un bello spirito. Per gli antichi greci la bellezza ci mette in contatto col divino. Infatti siamo pieni di statue classiche dove i corpi sono perfetti. E allora non bisogna mai portare le fidanzate a vedere quelle statue che poi fanno confronti. Poi però è arrivato il cristianesimo e i primi cristiani hanno detto: no, se tu ti dedichi troppo al corpo vuol dire che non ti occupi abbastanza dello spirito. Infatti i primi cristiani Gesù lo immaginavano quasi bruttino perché si occupava solo dello spirito umano e quindi era giusto non dare troppa importanza al corpo, mentre invece nelle sacre scritture Lucifero è descritto come il più bello degli angeli. Ma poi a un certo punto i papi hanno detto agli artisti: ragazzi, Gesù dovete dipingerlo bello e Lucifero brutto, altrimenti qui va a finire che le chiese si svuotano. E allora già nei dipinti, anche rinascimentali, Gesù è diventato biondo, con gli occhi azzurri, con una bella capigliatura fluente e con una corporatura regolare. Insomma, per far continuare le persone ad andare in chiesa, idealmente i pittori hanno mandato i dipinti di Gesù in palestra. E se lo hanno fatto i pittori con i dipinti di Gesù, in fondo non c'è niente di male se lo facciamo anche noi col nostro stato, anzi col nostro corpo. E viva il corpo, tu che però puoi esibire un corpo plasticamente da invidiare, caro Leonardo Manera. Dovresti invece... Hai visto che ricostruzione storica ti ho fatto in pochi minuti? Infatti, guarda, io veramente non so, sei talmente sprecato in questa bieca trasmissione, sì, questo è vero. Futile e stupida trasmissione di basso livello, di bassissimo rango, che non lo so, potresti ambire al posto di Salvatore Carrubba, per esempio. Insomma, no, io voglio sempre prendere il posto di Alessandro Tedesco. Alessandro Tedesco, sì, cacciatore di libri. Va bene. Cara Ted, cara amica mia, ma niente. Non insieme a lei, no, no, da solo, io voglio proprio esautorare. Sì, sì. Lei infatti ha tentato quest'estate, ricordiamo, di affiancarti per cercare di inglobarti così, ne dai, siamo amici. No, no, no, quali amici? Quali amici? Qui ci sono i coltelli che volano, cara Alessandra Tedesco. Qui ne rimarrà in piedi solo uno. Questa è la verità, questo è, no? Giusto il messaggio che lanci tu? Sì, il mio obiettivo è quello. Scalzata, derisa e cacciata. Va bene, molto bene. Andiamo al giornale radio e poi nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan ci ritroverete qui. Uno Nessuno 100 Milan. Boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Rispondo a quell'ascoltatore che ha articolato la qualità. Se te riduci lo stipendio a parlamentari, la corruzione si decuplica, capito? I parlamentari sono troppi? Beh, allora mettiamone due soli, anzi, facciamo uno, dai, facciamo uno solo. Vabbè, dai, non ragioniamo per estremi, nessuno ha detto di metterne due. Perché tu dici che in Italia si tende a ragionare per estremi? Ma guarda, non mi risulta. Ho così questo piccolo sospetto. Guarda adesso questa storia di Berlusconi. Tutti a dire Berlusconi, i titoli di prima pagina. Oh, ma la prima pagina, il titolo più importante, Berlusconi positivo. Tra l'altro nessuno scrive Berlusconi asintomatico, questo come titolo, cioè stiamo parlando di un signore di quanti anni sfida Luchetti? Non so, 85, 83, 84, forse va per gli 85, non lo so. Attaccare! Sì, chissà se sarà così in questo momento a casa sua, a dire contro il Covid cosa bisogna fare? Attaccare! Chissà se la prende così. Ma forse anche quando, adesso non ricordo, ma anche quando Briatore è risultato positivo, anche lui è finito in prima pagina, forse, o no? Sì, questa Zingaretti, però, quando... questa però è la prima pagina, proprio titolo di La Stampa, Berlusconi al Covid, titolo più importante di prima pagina, il giornale, vabbè, Forza Silvio, il Corriere della Sera, Berlusconi positivo, sto bene, titolo più importante del quotidiano di oggi. Ma la cosa che mi lascia perplesso riguardo, ma è successo con Zingaretti, è successo con Briatore, sì, adesso con Berlusconi, è che tutti, c'è questa atmosfera ilare, no? Quando fu con Zingaretti, ecco, è andato a fare gli aperitivi, adesso in qualche modo se lo mette. Con Briatore, ecco, sei stato a billionaire, te lo metto. Berlusconi, vabbè, cosa ha fatto? Avrò fatto qualche festa, immagino lì, c'era anche Briatore. Però c'è sempre quasi una soddisfazione dalle persone. Il karma! Ne avete fatte forse più feste più voi di lui, poi. Sì, aspetta infatti, un attimo, più noi, mi ci metto dentro anch'io. Aspetta che Lorenzo Nespoli mi fa dei segni strani in regia, aspetta. Attaccare! Ma devi gridarlo forte. Attaccare! No. Più forte. Zaghi, dai. Più forte, perché nello stadio. Attaccare! Ma dai, no. State a vedere. Attaccare! Questa è l'origine di tutto. Comunque sfida Luchetti, ci dice che compirà 84 anni il 29 settembre. Quindi quasi 84 anni Silvio Berlusconi, non Miriam Lucchetti compie 84 anni, li porta bene la nostra Miriam Lucchetti, no, Silvio Berlusconi li compie. C'è Rocco ci chiama da Salerno, eccoci qui Rocco. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, prego. Ci ha chiamato, credo, allora, sul ponte, sullo stretto, ha una cosa da raccontare molto interessante. Sì. Sì, sono un imprenditore, sì. Ho una società di trasporti che utilizza l'unico mezzo possibile per attraversare lo stretto. Io spendo mensilmente 40.000 euro per far traghettare i miei automezzi. Secondo voi... Ma che automezzi ponte... sono? Scusi, Rocco, per... Scusa, sì, sono stato poco preciso. Faccio l'autotrasportatore, ho dei mezzi che facciamo... sono vettore di una grossa azienda... Sì. Come si dice? Non mi viene la parola. Di corrieri. Ecco, di corrieri. Ok. Esatto. E spendo 40 euro al mese. 40.000, ci ha detto. 40.000. 40.000 euro al mese, scusate. Sì. 40.000. Ma è sicuro? Guarda, se mi dai il tuo telefonino, io ti mando le copie delle fatture. Procediamo subito. Allora, il signor Leonardo Manera risponde al 333. Ah, no, scusi, no, glielo diamo privatamente. Privatamente, sì. Certo. Esatto, sono tanti soldi, però. Io ti mando le copie delle fatture. Ma no, ci credo, dico, sono tanti soldi, vuol dire che c'è anche tanto... Rocco ci vuol dire che, immagino, con un ponte o un tunnel spenderebbe molto meno. Certo, ci sarebbe un pedaggio sicuramente da pagare. Ma certo, che non sono mai 40.000 euro al mese. 40.000. Ma accidenti, ma che ricarico c'è su quella merce, Rocco, per ammortizzare quella spesa e guadagnarci, evidentemente... Noi abbiamo un rimborso chilometrico, perché lavoriamo per un corriere nazionale ed internazionale che ci dà un rimborso a chilometro. Certo. Quindi voglio dire... volte ci si guadagna di più, a volte su alcune linee ci si rimette. Lei sa che comunque nell'arco della sua vita non riuscirà a vedere realizzato né il ponte né il tunnel. Io non ti dico quello che sto facendo col gesto. Benissimo, Rocco, assolutamente. Ma bisognerebbe un po' sistemarlo questo Manera che si lancia in... Giustamente, Rocco, che vivrà almeno altri 70 anni. Sì, no, ma non è quello. No, non era una previsione sulla durata della vita di Rocco. Ma era sulla difficoltà di realizzare il ponte o il tunnel. Di Rocco non si può sapere. Grande Rocco da Salerno. Grazie per essere stato con noi. Andrei a Campobasso da Nicola. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io avevo chiamato per quanto riguarda il referendum del 21. Sì. Niente, mi fa specie che già è stato detto comunque che si risparmia solo un caffè. Ma qui a forza di caffè abbiamo un debito pubblico di 2 miliardi di... E mezzo, e quando, ogni volta che c'è da risparmiare qualcosa si cita il caffè, il cappuccino, la brioche, ma la democrazia, o addirittura si fomenta che la democrazia è in pericolo, perché tagliamo 325 tra deputati e senatori, quando bene ne rimangono altri 600. Ma lei è per il sì, mi sembra di capire, certo, certamente sì. Dicendo e mi sento rappresentato, anche se siamo una piccola regione e abbiamo pochi rappresentanti, non mi sento uno sconfitto se vince. Non rischia di temere che il Molise possa avere minori rappresentanti? Mi auguro che le politiche sono... Sì. Le politiche sono... mi scusi, sto in macchina, ma no, una prego. Persona che mi sta... Spero non un vigile. No, sto fermo. E quindi stavo dicendo, pur essendo una piccola regione con pochi rappresentanti, non mi sento affatto minacciato come... Insomma, Nicola dice sì, a furia di dire un caffè con questo slogan, però ci siamo rovinati come nazione a sperperare anche un caffè all'anno. Poi, è anche vero che noi in Italia ogni regione ha il proprio parlamento regionale dal quale comunque siamo anche rappresentati, quindi cioè, tu dici tutto sommato... non siamo uno stato federale, però le regioni contano, hanno un loro... le regioni contano, ogni regione ha il proprio parlamento, quindi... Riccardo dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Eccoci. Buongiorno a tutti quelli che stanno in ascolto. Lei, volevo proporre un mio dubbio, insomma. Sì. Io credo che, a parte che giustamente loro ci stanno vendendo questa, secondo me, una bufola, che per risparmiare dei soldi che poi sarebbero 95 centesimi a testa all'anno, una cretinata. Sì, e io ho l'impressione che loro pian pianino stiano cercando di farci votare esclusivamente tutta l'Italia attraverso la piattaforma Rousseau. E non mi sembra più una democrazia, mi sembra tanto più che è controllata da una società privata. Sì, ma il Parlamento rimarrà, se anche dovesse. Il Parlamento rimarrà, però pian pianino, se tutti andiamo a votare con la Rousseau come loro vorrebbero, secondo me. Loro sono i 5 Stelle, loro sono esattamente, sono gli unici. Sì. E quindi non ci siamo, quindi io voto per il no e chiedo che la gente si dia da fare a votare per il no. Quindi lei vota per il no, vede un rischio di, diciamo, depauperamento della democrazia per arrivare al progetto di votare tutti su Rousseau. Va bene, vedi, caro Leonardo, come la questione del referendum ha attizzato gli italiani. Tu avevi un atteggiamento tiepido, quasi disinteressato sulla corretto, questione corretto, istituzionale. E invece come è un argomento che interessa molto. Come richiede il garante dell'informazione, assolutamente, Ligio. No? Ti inviterei anzi ad approfondire il tema i prossimi giorni, visto che è un argomento che interessa molto. Domani secondo me se ne occuperà anche Simone Spezia, poi insomma Roberta Giordano, nei nostri giornali radio. Noi informiamo gli ascoltatori in maniera ligia, precisa, istituzionale, corretta. Tiepida. anche tiepida. Cosa, un caffè bollente fa male, un caffè tiepido fa, certo, no? Traffico, sì. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, ma il Berlusca è sempre stato una persona positiva, capite? È sempre stato positivo e per quello che ha raggiunto determinati risultati. Non si è fatto mancare nemmeno il Covid, dai. Forza Berlusca. Va bene. Allora, devo dire che poi peraltro ragionando, caro Leonardo, alla fine sì, la democrazia, la rappresentatività, i parlamentari, ma alla fine molti anche dei messaggi che arrivano sono tutti sui danè, come dicono a Milano, i soldi, il denaro, i risparmi, c'è un po' di così afflato anticasta in questo, no? Tutti a guardare sì il caffè, non il caffè, il risparmio all'anno va bene, ma, e gli stipendi dei parlamentari, le pensioni dei parlamentari, alla fine l'italiano, no? Si movimenta su quello. Però ti vedo molto interessato. Andiamo quindi avanti con la. Io sono molto interessato alla questione, ma. Io sono tiepido. Mi adeguo alla linea della trasmissione. Va bene. No, dai, adesso vogliamo salutare un graditissimo ritorno, perché a me piace ogni tanto in questa trasmissione guardare l'Italia e questo paese, analizzarlo anche attraverso quello che succede nel mondo delle carceri italiane. E c'è una persona che è Patrizio Gonnella, che presiede l'associazione Antigone, che da anni si occupa di tutte queste tematiche. Patrizio, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora, coincidenza vuole, l'avrai visto, il titolo di apertura di Repubblica. Repubblica si concentra sulla questione delle scarcerazioni legate al Covid, gli allarmi nei mesi scorsi, i tanti anche boss scarcerati, 376, Repubblica oggi in prima pagina con Salvo Palazzolo, metà di questi boss, metà sono ancora a casa. È vero che il ministero dice 111 sono già rientrati, ma 112 boss trafficanti di droga, trovate tutti i nomi su Repubblica, sono ancora fuori da quel carcere. Caro Patrizio Gonnella, partiamo da qui per fare. Sì, possiamo pure partire da qui, nella consapevolezza che ovviamente la gran massa della popolazione detenuta non è composta da queste persone. Certo, certo. È importante che si sappia, noi abbiamo circa 54.000 detenuti, dati di avantieri della stessa amministrazione penitenziaria, e al 41 bis, che è il regime duro previsto principalmente per i mafiosi, e poi c'è qualche residuo di terrorismo, ma molto residuo, ce ne stanno 600-700 di certo. persone. Ecco, questa è la premessa. Dopodiché, adesso io spero che tutto questo, i numeri siano ovviamente chiariti. Detto questo, immagino che se ancora ci sono situazioni persone fuori, la magistratura avrà assunto le sue ragionevoli decisioni. Io una cosa voglio dire: non mettiamo sempre il pensiero che c'è dietro logico, che siamo un pochino tutti come posso dire eterodiretti da mafie e cose di questo genere, perché io mi fido della magistratura e mi fido delle istituzioni, voglio fidarmi di tutte le istituzioni, invece a volte c'è sempre questo retropensiero di una istituzione che di cui ci si fida meno, che lo sguardo un po' torvo e così via. Vediamo se c'erano le ragionevoli motivazioni, queste ragionevoli motivazioni devono essere prese in considerazione. Che poi quali sarebbero queste ragionevoli motivazioni? Legate all'emergenza, l'emergenza sanitaria, quindi, no? La salute, ovviamente la salute, ma poi da quello che ho capito leggendo, perché ovviamente è solo leggendo le motivazioni date dal Ministero della Giustizia nel replicare in Parlamento, si tratta di una parte di queste persone che sono fuori, in realtà c'entra poco con il Covid, sarebbero probabilmente comunque uscite, perché si trattava di persone che avevano già gravi motivi di salute, corso, cioè. Altri motivi di tipo processuale o motivi di tipo di salute, ma che non c'entra niente con il Covid. Sì, qua tante volte l'abbiamo detto, coinvolgo anche Leonardo Manera, qui bisogna capire che tipo di società vogliamo, perché visto che abbiamo detto, prima ironicamente Leonardo diceva perché in Italia si ragiona per estremi, ecco, sì, si ragiona per estremi, quindi la popolazione si divide in chi dice basta, buttiamo via la chiave, basta pensare ai diritti di persone che hanno commesso dei crimini, abbandoniamoli là, facciamoli marcire nelle celle, e chi invece dice, mantiene un atteggiamento secondo me più civile, a dire non è che se uno è detenuto e sconta una pena debba per questo perdere i diritti, se non quelli previsti dalla legge, che ne so, quello del voto, se perde il diritto di voto. Per il resto rimane un essere umano con tutti i suoi diritti. Quello è il principio generale, però io voglio introdurre un altro argomento dove forse molti radioascoltatori possono essere sensibili, che è il principio di utilità. Al di là di chi deve scontare pene lunghissime, ma vale anche per loro, una pena che non sia solo sofferenza, che non sia solo negazione di diritti e così via, è una pena utile. Una pena utile a cosa? A far sì che queste persone si emancipino dalle loro storie di criminalità, di legalità, incontrino un mondo diverso, un modo di pensare diverso, per esempio la scuola, in questa fase 3, chiamiamola del Covid, nelle carceri italiane, bisognerebbe anche lì reinvestire tanto nella scuola, invece stiamo sentendo purtroppo di molte scuole che non riapriranno in carcere, la solitudine, l'ozio fa sì che uno pensa che l'unico modello possibile di vita sia il modello criminale, invece un modello diverso, in cui fondato su scuola, lavoro, intrattenimento culturale, dà la possibilità di cambiare il tipo di vita e di ridurre il tasso di recidiva e di avere fuori meno reati, un investimento sulla sicurezza. Sì, tra l'altro io vorrei anche dire che non è solo una questione di opinioni, ma visto che noi abbiamo una Costituzione, è l'articolo 27 che lo cito, dice: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Quindi se noi abbiamo un faro che è la Costituzione, va presa in considerazione anche quello, io credo. Sì, poi anche aggiungo i numeri sulle recidive, ma li abbiamo detti mille volte, sono impietosi, cioè tutti quelli che sono detenuti e che hanno la possibilità di imparare un lavoro, andare a scuola, istruirsi, hanno un tasso di recidività quando escono che è spaventosamente inferiore rispetto a quelli che vengono lasciati lì, no? Tre volte più basso. Quindi questo è. Tra l'altro, com'è la situazione Covid nelle carceri? Uno può dire, ma chi se ne frega? Quando si dice distanziamento personale, sembra un po', fa sorridere se applicato alle carceri. E quindi lì che cosa succede nelle carceri italiane? In questo momento abbiamo 54.000 detenuti, mentre i posti letto regolamentari, chiamiamoli così, sono intorno ai 50.000, quindi ci sono circa 4.000 persone in più, rispetto non al distanziamento di un metro, ma rispetto alla capienza regolamentare. Quindi ancora c'è bisogno di ridurre i numeri generali della popolazione. Complessivamente ci sono state circa 300 persone che sono, diciamo, risultate positive in questi mesi al Covid, il sistema tutto sommato ha tenuto anche. Che succede lì se uno è positivo al Covid? Perché in teoria va isolato, messo in quarantena. Bisognerebbe avere gli spazi, un po' fortunatamente alcuni sono stati creati, e fare dei mini reparti dove venga garantito l'isolamento, quantomeno per gli asintomatici. Ovviamente se è sintomatico è previsto che ci sia il ricovero. Il problema qual è? Soprattutto per i nuovi giunti, cioè tutti quelli che entrano in carcere devono essere monitorati, a volte viene fatto, a volte meno. In passato sono successi casi anche drammatici di persone non controllate dall'esterno, nuovi giunti in carcere e che hanno portato il virus dentro. Speriamo che ora l'esperienza porti a non fare questo errore e a non trasformare le carceri in RSA, perché il rischio è sempre lì presente, perché è tutta tanta gente insieme. E agli ascoltatori che dice che si ne importa delle carceri, beh, insomma, importa anche di se stesso, perché in realtà si tratta di poi risorse mediche, posti in ospedale che sottraiamo ai cittadini liberi. Allora, noi ieri abbiamo visto anche questa notizia, caro Leonardo, e abbiamo detto chiamiamo Patrizio Gonnella perché gli facciamo commentare anche questa. La vicenda del carcere di Cuneo, credo che ci sia stato un detenuto che ha proposto di dire voglio vedere anche Sky. Sky, la piattaforma pagamento, sono disposto a pagare, pago io di tasca mia, ma voglio Sky. E la vicenda è finita fino alla Cassazione, che ha deliberato che bastano i canali digitali Rai e Mediaset. Ora non lo so, per carità, se la dobbiamo ascrivere a notizia di colore, a notizia importante, Patrizio Gonnella ci aiuta a capire. Anche questo succede nelle carceri italiane a volte, no? Beh, ma certo, si può immaginare una grande quantità, migliaia di persone, tendenzialmente maschi, perché le femmine sono più bravi di noi e commettono pochi delitti e quindi sono un po' che quindi sono tutti tifosi. Provi ad andare a Secondigliano, a Rebibbia, ovviamente ci sono i derby a Milano tra milanisti e interisti e così via, quindi il calcio è molto presente anche nel dialogo fra i detenuti. Non si è mai organizzata, come posso dire, un tentativo di far vedere le partite con un impegno dell'amministrazione attraverso piattaforme Sky che riguardino, anche se in realtà tentativi di questo genere sono stati fatti, per esempio, in alcuni minoriti, di far vedere Sky ai detenuti, quindi non è completamente escluso. No, però il tema è interessante, perché qualcuno ieri qui in redazione se ne discuteva e diceva, ma pensate uno che riesce anche a far passare il principio pago io detenuto Sky per tutti. Ma poi anche può essere un'arma di ricatto quasi, no? All'interno del carcere, no? Tu se vuoi vedere la partita mi paghi, mi sottopaghi, cioè, no? Questo è diverso, perché adesso non voglio citare Totò e dire che il carcere deve essere come la livella, però in realtà dovrebbe essere l'amministrazione che pensa di questo è un bisogno di tipo generale e offro io il servizio a tutti, ma che chi se lo può pagare lo, diciamo, mette, lo usa per sé e per gli altri, può creare delle pericolose disparità all'interno delle carceri, dove nella storia delle carceri abbiamo visto che c'è il detenuto A che conta e il detenuto B che gli fa i servizi. Questo è successo nella storia della vita penitenziaria italiana, e ovviamente la disponibilità concreta di denaro in mano crea ulteriori disparità. Deve essere un compito affidato all'amministrazione. Va bene, ringraziamo Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, ci sentiamo presto, caro Leonardo. Bisogna fare come faccio io, guardare sui canali locali quelli che commentano le partite. Sì. Qua abbiamo per esempio Tele Lombardia, Telenova. Telenova, 7 Gold, insomma, in Lombardia. Ti metti lì e guardi quelli che guardano la partita. Sì, la raccontano. Come quelli che vanno al bar e guardano quelli che giocano a carte. Più si invecchia, più la tendenza è quella, a guardare gli altri che fanno le cose. Va bene. A che cosa facevi? A cosa alludevi quando hai pensato questa cosa? Più si invecchia e guardi altri fare cose. Non lo so. È così. Era un po' pericoloso. È la tendenza della vita. Era un po' scivoloso. Prima fai e poi guardi gli altri che fanno. È il corso naturale della vita. Secondo te, Mauro Meazza, in questo corso naturale della vita, in quale punto si colloca esattamente? Io no, lui è ancora molto attivo perché pensa al denaro, il suo faro, diciamo, io prima ho detto la Costituzione, il faro di Mauro Meazza è il denaro. Denaro, soprattutto lecito o non lecito, non importa. Quello non ha importanza, l'importante è accumulare. Accumulare. È un accumulatore. Ma sì, seriale, denaro. Seriale, si sa. Vabbè, a questo proposito, infatti viene, spunta sempre qui quando c'è la borsa, per vedere, anche se tanto lui lo sa, perché lui è già la pilota da fuori. Comunque, sentiamo la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo qui, caro Leonardo, sono le 10:37 minuti e... come dire, vogliamo parlare... Ah, intanto giustamente un ascoltatore ci fa sapere che quelli che guardano gli altri fare cose sono gli umarel mitici. Danilo Masotti ha inventato e ha fatto crescere questa letteratura bolognese diventata italiana, gli umarel, no? Quelli che guardano gli altri. Quello è il compimento della vita. È il compimento della vita. È il compimento, Sì, sì, sì. È quando tu non hai più bisogno di fare e puoi permetterti di guardare gli altri che fanno. Esatto. Sono tranquillo, a posto. Ho fatto. L'icona è l'anziano che si ferma al cantiere edile per vedere come va avanti. E magari dà anche consigli partecipando. Sposta quella trave, fai così. Va bene, va bene. Che vuoi dire? No, nel momento in cui non fai più, puoi permetterti di criticare più di prima, giustamente. Certo, anzi, tu non sbagli mai. Quindi, allora, è la condizione migliore. Vogliamo parlare un pochino di scuola, perché insomma io mi tengo un po' a distanza. Sapete che il lunedì con Maria Piera Ceci abbiamo questa rubrica Tutti a scuola alle 9:30 e quindi lunedì tornerà con noi Maria Piera Ceci. Ogni tanto poi facciamo delle incursioni nel mondo scolastico. Certo, c'è da dire che non se ne può più di leggere proposte, cosa succederà. Ieri ho partecipato all'assemblea di inizio per la seconda media di mio figlio. Guarda, cioè, ti viene il mal di testa e possono far questo, possono far quest'altro. E chi entra con la bici entrerà di qui. Chi ha il monopattino lo deve parcheggiare là. Non può scambiare la matita, la gomma, il banco... Basta, cioè, comunque Rita Coccia, buongiorno, dirigente scolastico al Volta di Perugia, istituto tecnologico, è il più grande dell'Umbria. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e buon lavoro. 1800 studenti. Ieri è finita sui giornali e io so che lei dice ma insomma, ma io ho fatto tutto, ho spiegato. Ma lei non deve fidarsi dei giornalisti, noi siamo una razza. È vero, siete una razzaccia, come si siamo dice una noi. Razzaccia, ma lei ma non gliel'hanno ancora spiegato questa cosa, ma... è ancora fiducia nel genere umano. Leonardo Manera non è giornalista, quindi, ma io sì, per esempio, una razzaccia. Allora, lei ha spiegato tutto come riparte la scuola, è finita sui giornali perché ha detto chi non porterà la mascherina, tra le altre cose, proporremo la punizione di due interrogazioni al giorno per tre giorni consecutivi. Faccia chiarire, perché poi abbiamo la rete degli studenti che, se stupido, è citata. Oggi mi hanno mandato PEC da tutte le parti del mondo. Ecco. Faccia chiarire, perché qui, ragazzi, calma, sangue stretto. Tranquilli. Allora, la prima cosa però che dobbiamo dire a tutti è che purtroppo, cari miei, il dirigente scolastico è il datore di lavoro. Quindi, come lei avrà saputo ieri alla riunione, sua figlia, noi, o figlio adesso non ho ben capito, noi comunque siamo responsabili della sicurezza degli studenti, dei professori e del personale ATA. E siamo chiamati in causa proprio in prima persona, anche con problemi di natura penale. Quindi cercate di capire anche chi sta al di là di questa maledetta. Le regole vanno date. Tre regole sono basi, questo è importantissimo, e sono proprio elementari: mascherina, distanziamento e aerazione dei locali. Cioè i locali devono cambiare sistematicamente area. L'area. Quindi queste tre cose, io non credo che per chiaramente ragazzini della primaria, la chiamo ancora scuola media, permettetemi, per abbreviare, no? potrebbe essere un problema, perché non hanno ancora una struttura mentale tanto da capire dei comportamenti. Ma per la mia scuola, dai 14 ai 19, non è che ci vuole tanto, non è che faremo una formazione di un'intera settimana, cioè l'intera settimana lì. Sì, però poi sono ragazzi e ragazze che sanno capire benissimo. Cioè, voglio dire, non è che io devo... No, ma infatti qui è nata la questione, quando dice, ma se c'è qualcuno che si rifiuta di portare la mascherina... Aspettate ragazzi un attimo, no? Allora, io ho 1300 ragazzi, ce lo posso avere l'1% che non rispetta le regole? Sì, sono buona. Sono 18 ragazzi. Se 18 ragazzi non mi portano la mascherina, non fanno il distanziamento, ma lungo i corridoi si abbracciano, si danno le pacche, qualcuno c'ha anche la ragazza dentro la scuola, e quindi durante le pause si incontrano, e non aggiungo altro, e fanno anche bene, perché sono ragazzi, se non si fa tanto lo fanno fuori, quindi... Esatto. Questi 18 ragazzi, se qualcuno fosse asintomatico, in una popolazione che vive 9 ore al giorno, fissa, chiusa, di 2000 persone, che cosa produrranno? Potranno produrre un focolaio? No, però aspetti, professoressa, a me quello che interessa è come è venuta fuori, tra le varie idee, quella di questa punizione dell'interrogazione. Però siamo tutti d'accordo che chi sbaglia in qualche modo dovrà avere un minimo di sanzione, perché altrimenti mettiamo in discussione la salute di tutti? Siamo d'accordo su questo, cari ragazzi. Le regole senza sanzioni sono inutili solito. Allora, partiamo da questo scenario di fondo. Adesso, l'articolo 21 del nostro regolamento pre-Covid, cioè non è che l'ho inventato io con il Covid, è fatto da me, ma fatto dal Consiglio d'Istituto, come vuoi sapere, scusate il fatto, ma formulato dal Consiglio d'Istituto. Prevede anche questo. Al comma 20, l'articolo 21, comma K, dice: sospensione prima dell'allontanamento della comunità scolastica, che è l'ultimo, come massimo tra le massime azioni di sanzioni, cioè la sospensione con obbligo di frequenza, ve lo sto leggendo, ed intensificazione dell'attività didattica. Ce l'avevamo prima Covid. Quindi non è che io mi sono inventata. No, ma è interessante. Però, ma perché, perché è venuto fuori due interrogazioni per tre giorni consecutivi? Perché chi non conosce la nostra scuola ha l'idea della classica scuola che abbiamo frequentato tutti, fa la scuola, devo ascoltare l'insegnante che fa la lezione frontale, vado a casa, studio sul libro, torno a scuola e sono interrogato su quello che mi ha chiesto e vuole sapere anche le virgole. A questo concetto che intensificazione dell'attività didattica corrisponde ad interrogazione. Questo e lo capisco, perché voi giornalisti, se vi occupate di scuola, vi occupate in condizioni particolari. Non è che non fa scena, non fa notizia una scuola che fa grandi cose. Fa notizia questa cosa, due interrogazioni. Noi ci siamo prefigurati uno studente che non rispetta le regole, che per punizione ha matematica e scienze oggi, allora, domani italiano. Io abbandonerei la scuola a quel punto, mi ritirerei dagli studi. Manera si ritira subito, si capisce. La pacchettata sulle mani dove la mette? Quella c'era i ceci dietro la lavagna? Tutti hanno subito detto a sto punto meglio i ceci, meglio un ginocchio sui ceci. Però la cosa che a me viene in mente è che tutte queste sanzioni necessitano anche di una rete di controllo. Cioè, se due ragazzi, due fidanzati che stanno alla scuola, vanno magari in bagno insieme per baciarsi, ecco, magari come si fa a controllare? Ci vuole qualcuno che controlli, oppure una delazione di qualcun altro, magari geloso? Ma capisci che guarda, però per me poi dovremmo arrivare al punto di dire che è una follia, perché questi due fidanzati, fino al momento prima di entrare a scuola, si baciavano. E allora, se si baciano all'interno della scuola, che differenza c'è per la sicurezza della comunità se si baciavano fino a un secondo prima o dopo? Esatto, questo è il problema, anche sui trasporti, stesso pullman, sono tutti attaccati spalla a spalla, però le norme che noi abbiamo dal Ministero sono queste, ma certo. E io devo far rispettare queste cose. Ma voi siete vittime, guardi bene che io dico che siete vittime, perché appunto due che sono fidanzati, si baciano prima di entrare a scuola, va bene. Se si baciano, no, se si baciano a scuola, esatto, violano una regola. Ma capite che siamo il paese delle regole bizantine, una roba folle. Bisogna abolire i baci tout court, ecco, basta baci. Giusto, basta. Baciarsi è proibito, dentro o fuori dalla scuola. No, ragazzi, no, no. Facciamo un decreto legge di PCM, come tanti, e sono vietati i fidanzamenti tra studenti. Ma faremo così, però mettetevi anche nella condizione di un dirigente scolastico che è responsabile di quello che succede a scuola adesso, a parte gli scherzi, e cerchiamo, certo, di drammatizzare, però la situazione non è delle più semplici, no, noi no, siamo no, diciamo tirati da una parte e dall'altra, e purtroppo, ripeto, i datori di lavoro, se non c'è un DPCM che ci dice il contrario o che crea delle condizioni per noi più favorevoli, noi purtroppo siamo nelle condizioni, ma certo, di ma dover, certo, gestire questa situazione. No, ma guardi, ma noi la ringraziamo anche per la simpatia, oltre che per averci dato delucidazioni. Rita Coccia, preside all'Istituto Tecnologico Volta di Perugia. Guardate, ripeto, Leonardo, non so se tu hai preso parte a riunioni, cioè anche questa cosa le famiglie devono verificare, al mal di gola e al raffreddore e alla tosse e a qualsiasi sintomo bisogna stare a casa 3 giorni. Ma vogliamo dirlo subito? Chiudiamo tutto subito, sì. Chiudiamo tutto subito e facciamo prima, invece di fare queste buffonate che porteranno poi, se uno le segue, e poi probabilmente è così, è così forse in tutto il mondo, no? Abbiamo sentito, ma anche le regole, hai sentito che ieri ci sono a in Wuhan, Cina. A Wuhan. Sì. Il problema è che poi cosa succede? Stanno a casa, i genitori cosa fanno? Li lasciano ai nonni, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, sì, poi sì, i nonni diventano soggetti a rischio, che facciamo? Ma sì, guarda, ma vedremo. Niente. Colpo in di grande tosse, confusione. Tutti a casa, raffreddore tutti a casa, mal di gola tutti a casa. E vabbè, allora stiamo tutti a casa, che facciamo prima? Dai, io andiamo. Lo sto già facendo, infatti, guarda. Infatti, fate come maniera, dai, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Attenzione signori, alle 10:49 minuti, e sono molto felice perché ci mancava, è tornata la nostra sardina a trovarci, il nostro Elenio, Elenio Mariotti, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, sono Elenio Mariotti del Movimento delle Sardine e buongiorno. Buongiorno, buongiorno, che educazione, mamma mia. Ma guardi, per prima cosa vorrei dire che noi siamo educati, nasciamo come movimento antipopulista. Perché è troppo facile andare a soleticare la pancia delle persone, perché è troppo facile avere delle reazioni se soletichi la pancia delle persone, perché alla pancia soprattutto il soletico. La cosa difficile invece è soleticare il cervello delle persone, lei sarà d'accordo. Infatti quando parla il nostro leader Mattia Santori, vedi che in piazza sono tutti lì che si grattano la testa, perché lui sta soleticando il cervello. Dice, cos'è che vuol dire? Cosa sta dicendo? Perché lui è uno capace di soleticare il cervello, mica la pancia. No? Ah, per quello. Per quello, sì. Poi l'altra cosa che ci caratterizza, l'ha detto lei, è l'educazione, perché siamo tutti persone educate. Per esempio noi quando andiamo in chiesa, che qualcuno di noi va in chiesa in tempi normali, il segno di pace non ce lo diamo mica una volta, ci diamo 3 volte. Appena entrati in chiesa, per presentarci al vicino. Poi quando dice il prete, alla fine quando andiamo via. Cioè, siamo educati in tutto. Quando ci andiamo in piazza, c'è qualcuno di noi che per educazione va in piazza con le pattine per non rovinare i sanpietrini. Addirittura. Quando c'è il comizio, sempre per educazione, il comizio mica lo facciamo gridato. No. Il comizio noi lo sussurriamo. Sussurrato così. Per non disturbare quelli che abitano in piazza, magari stanno guardando la TV, no? Tipo le repliche di Walker Texas Rangers, che per la verità non è mica di Walker Texas Ranger. Walker. Che non è mica tanto Walter Texas Ranger, un Texas che si chiama Walter. Che per la verità Walker. Non è mica educato, cioè. E noi sussurriamo il comizio, c'è gente che sta in piazza 2 o 3 ore, sì? E siccome sussurriamo viene via senza aver sentito neanche una parola. Però va a casa contento perché almeno ha fatto 2 passi, camminando ha avuto una digestione più educata. Più educato. Comunque se vuole può anche farmi una domanda, sono, sì, pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Ah, perfetto, guardi, ne faccio una che è semplicissima. Voi siete di destra oppure di sinistra? Io, cioè, capito, no? Penso che semplice. Questa sia una domanda aggressiva, cioè mica educata. Beh, no, è una domanda, guardi. Aggressiva, cioè è un atteggiamento aggressivo. No, ma... cioè, i giornalisti ci vedono, come lei, appena ci vedono, chiedono, ma voi da che parte state? Destra, sinistra? Beh, sa. Cioè, non si fa così. No, come si fa? Cioè, è una domanda. Ma non è che appena conosci una persona chiedi subito se di destra o di sinistra, no? Prima ti presenti, sì, ci esci un paio di volte insieme. Sono Alessandro. Cerchi di socializzare, bevi un ginger insieme... Cosa per un ginger? Un ginger. Poi si viene il momento, se si presenta l'occasione. Il ginger è molto educato. Se si presenta l'occasione, cerchi di capire politicamente da che parte sta, ma partendo più alla lontana. Cioè, però, gli chiedi, ma te l'ultima volta per chi hai votato? Ti ricordi quando c'erano DC e PC? Sì. Non sono più i tempi di Quintino Sella. E allora prendendola alla lontana puoi farti un'idea. Se quando gliela posso fare questa domanda? Perché è un anno che glielo chiedo. Ma no, se chiedi subito, te sei di destra o di sinistra, cioè sei aggressivo, è normale che poi uno non ti risponda. Facciamo un'altra domanda. Se proprio vuoi, no, io ti voglio rispondere perché sono educato. Ecco. Cioè, noi, le sardine, siamo come la brezza. Siamo la brezza. La brezza devi captare quando va in barca a vela. Sì. Cioè, per capire se mettere su una vela o un'altra, la randa o il fiocco, devi captare il vento. E se non ci riesci a captarlo, cosa fai? Metti il ditino in bocca e poi lo tiri fuori, che col ditino umido il vento si sente meglio. Ecco, cioè, capito? Se vuoi sentire da dove arriva la nostra brezza, devi mettere il ditino in bocca e aspettare con educazione e senza sottintendere altre cose che non sono mica educate. No, infatti. Una volta in una trasmissione televisiva notturna, ho visto una ragazza che stava lì col ditino in bocca, pensavo che cercava di capire se noi sardine siano di destra e sinistra, invece poi mi ha detto che era una pornostar, capito? Quindi bisogna anche stare attenti a come ti rapporti. Penso di aver risposto alla vostra domanda. Beh, insomma, guardi, proviamo con la successiva. Noi siamo la brezza. La brezza, voi siete la brezza. Proviamo con la successiva, posso? Posso? Guardi, sono educatissimo. Proviamo a vedere se è più educata. Allora, quale è il vostro... Programma. Ma guardi, io dico che... cioè, questa è una domanda che più maleducata non si può. No, scusami, adesso però... ma veramente il trionfo della maleducazione. Cioè, una persona gretta. Una persona gretta, veramente. Beh, gretto non è molto educato, da dire. Cioè, io cercherò di rispondere con tutta l'educazione. No? Qual è il nostro programma? Se te, per esempio, vai a prendere un serramento... una porta finestra, la porta finestra è quella lì, si apre e si chiude, però ci sono tanti modi per aprirla e chiuderla. C'è chi preferisce il metodo tradizionale, chi preferisce l'apertura a vasistas, che è più educata, perché passa meno aria e non arriva alle folate. Poi certe volte va aperta anche completamente quando bisogna cambiare aria e in casa c'è il pesce che è lì da 3 giorni, non è ancora il momento della raccolta dell'umido. Ma il programma, e allora il nostro programma qual è? E qual è? Cioè, sono stato fin troppo chiaro, no? Sì. Credo di non dover aggiungere nulla, altrimenti farei un'offesa all'intelligenza degli ascoltatori. Va bene. Senta, io avrei un'altra domanda, Elenio, mi dica lei, perché non provo. Mi dica, cioè io sono qui a rispondere, educatamente. Educatamente sì, però un po' elusivamente, mi permetta. Comunque, sono chiaro. Vi chiedo questo, voi sardine, con chi vi presenterete alle prossime elezioni? Questo si può sapere? Beh, ma lei continua a fare domande sconvenienti. Ma no, sconvenienti, sono banali. Ma sono sconvenienti. Cioè, veramente non pensavo, se avessi saputo che le domande erano così, non avrei accettato di partecipare. Così come? Maleducate? Ma così sconvenienti, aggressive. Sì, aggressive. Cioè, vabbè. Per prima cosa dico che alle elezioni posso presentarmi con chiunque, tanto poi nel seggio si entra da soli. Cioè, ma io ho capito che è una domanda maliziosa fatta apposta per sapere se vogliamo allearci con qualcuno. Come quando ti vedono con una ragazza e ti chiedono, è la tua amica? Sottintendendo che è una con cui ci vai a letto, no? A parte che io, vabbè, voglio rispondere, no? Lei mi ha chiesto con chi ci alleiamo. Sì. Noi ci alleiamo, noi sardine, con chi sente il profumo dell'estate ma anche la freschezza della primavera, chi apprezza il candore della neve ma gode anche dei tramonti vellutati autunnali. con chi sa che le stagioni sono quattro, ma sa anche che in certi casi non c'è più la mezza stagione. Certo, si sa. Con chi nella tastiera del pianoforte sa vedere anche i diesis e i bemolle, chi li va in battere ma anche in levare. Insomma, per essere più chiari, noi vogliamo allearci con chi, dopo aver piantato un chiodo nel muro, quel muro offeso lo sa ricompensare con la bellezza di un quadro di Gauguin. Quindi penso di essere stato fin troppo chiaro. Ma insomma... E se lei me lo consente, vorrei lasciarvi con un aforisma. Ah, perfetto. Una frase che diciamo sempre alle nostre riunioni educate prima di salutarci. Sì. Diciamo 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne 31. E io penso che da questa filastrocca si capisca tutto. Vabbè, cioè, ci sono molti che sono 30, molti che sono 31. E noi siamo in febbraio. Vabbè, guardi. Che siamo unici e anticipiamo la primavera, però con educazione. Signore Legno, alla prossima. Dai, noi ci troviamo domani. Nessuno, nessuno, 100.000 anni.